Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata di Spazio Giovani. Chi vi parla è sempre Don Leonardo Maria Pompei, che vi dà il benvenuto su queste frequenze e pronti a continuare il nostro itinerario sui 10 comandamenti, che sta vivendo un momento particolarmente bello e particolarmente aureo, come ricorderete. Stiamo parlando del terzo comandamento, ovvero dell'importanza della Santa Messa domenicale e festiva, che la volta scorsa abbiamo un pochino cominciato ad affrontare nel merito, soprattutto cercando di comprendere in che senso la messa è sempre messa e quindi tutte le messe sono uguali e in che senso non tutte le messe sono uguali. Ecco, io sono appena di ritorno, sono tornato stanotte per grazia di Dio da uno splendido pellegrinaggio a Pietrelcina, San Giovanni Rotondo e Sant'Angelo, quindi San Michele. Quindi speriamo di essere tutti quanti bene, pieni di grazia. Tutti quanti sappiamo, quindi riallacciandomi al discorso di mercoledì della scorsa settimana, che la messa di Padre Pio certamente non era una messa come tutte le altre, se non altro per la partecipazione straordinaria sia del celebrante, che riviveva, come tutti penso che sappiate, la passione di Cristo durante la Santa Messa, e sia anche dei partecipanti che accorrevano numerosissimi all'altare di San Pio, che pure celebrava ad orari che per noi sarebbero a dir poco proibitivi, quindi prestissimo la mattina, e quindi accalcavano i cancelli della vecchia chiesetta del convento di San Giovanni Rotondo a notte fonda, a notte inoltrata, quindi anche con il freddo dell'inverno, semplicemente per assistere davvero a una rappresentazione viva del mistero del Calvario, che nella straordinaria messa di San Pio, come tutti sappiamo, quotidianamente avveniva. Chi ha servito la messa di San Pio, e ci sono diverse persone viventi che tuttora possono testimoniarlo, vedeva le mani di questo grandissimo santo e riprendere a sanguinare proprio nell'avvicinarsi della preghiera eucaristica, del canone, appunto perché per un straordinario privilegio divino, San Pio, come sapete, riviveva la passione del Signore sempre, ininterrottamente, ma in modo particolare e molto intenso durante la Santa Messa. Adesso vedremo se poi, forse magari al termine di oggi stesso, ci sarà tempo di leggere qualche pensiero di San Pio in persona, insomma, sulla Santa Messa, perché è davvero straordinario. Quindi cercheremo di farlo. Oggi vorrei ancora parlare un po' della Santa Messa, perché tanto non se ne parla mai abbastanza. E la volta scorsa abbiamo visto, insomma, che la differenza che c'è tra validità della messa, liceità della messa e fruttuosità della Santa Messa. Quindi, e abbiamo visto come, a seconda della santità del celebrante, la messa produce maggiori o minori frutti, perché attira maggiore o minore grazia da parte del Signore, che si compiace ovviamente dei suoi servi fedeli, e non è che proprio si compiace tanto dei suoi servi non proprio fedeli, fermo restando che la messa è sempre valida purché ci sia un sacerdote regolarmente ordinato che la celebra. Ora, voi sapete che oggi circolano in giro, e purtroppo a volte anche non piccoli gruppi ecclesiali, delle dottrine strambe e strampalate sulla Santa Messa, nel senso che si tende a minimizzare la dimensione sacrificale, e quindi anche che è l'aspetto indubbiamente principale della Santa Messa, e quindi con tutto ciò che esso comporta, quindi tutto quanto il carico di adorazione e di mistica, diciamo così, che comporta una corretta interpretazione della Santa Messa, che chiaramente poi influisce anche su come viene celebrata dal sacerdote e anche su che cosa viene permesso di fare durante la Santa Messa, quindi che tipi di canti si fanno, si eseguono, che tipo di clima si crea, che tipo di atteggiamenti interiori ed esteriori si assumono durante la Santa Messa. Quindi oggi purtroppo, anche se non è detto, diciamo così, molto chiaramente, è un pochino spesso in crisi quella che è la dottrina strettamente cattolica della Santa Messa. E a mio avviso questo è tanto più grave quanto, a differenza di come avveniva ai tempi delle grandi eresie e delle grandi contestazioni, oggi, purtroppo, non si nega apertamente la verità della dottrina cattolica, assolutamente. La si afferma esplicitamente, cioè nel senso dice nessuno nega che ci sia questa dimensione, però sul piano pratico vengono esaltate altre dimensioni della messa che pur presenti non sono tuttavia le principali, con la conseguenza che su un piano pratico, ma anche su un piano teorico, quindi della retta formazione dei fedeli, avvengono non poche, non, avvengono non pochi, scusatemi, disordini. Per esempio, oggi si esalta anche grazie al nuovo rito della Santa Messa. Attenzione, ho detto anche grazie al nuovo rito della Santa Messa, perché come ho sempre detto e come sempre ripeterò, il nuovo rito della Santa Messa, come dire, permette a chi ne fa cattivo uso alcuni abusi, ma non sono assolutamente, riconducibili ipso facto alla struttura del rito. D'accordo? Perché vi assicuro, l'avete conosciuto anche voi, si può celebrare la messa con rito nuovo anche in lingua volgare, senza con questo scadere in messe sciatte oppure in messe a dimensione esclusivamente orizzontale. Spero che gli ascoltatori capiscano quello che sto, dicendo. Quindi non è, automatico, non è detto messa nuova uguale messa orizzontale. Chiusura ad ogni dimensione verticale, niente adorazione e niente di tutto questo. Non è vero questo qui, perché dipende chiaramente da come ci si accosta. È vero che avendo la messa nuova una struttura meno rigida di quella antica, se uno volesse, ahimè, fare delle strane sperimentazioni oppure porre in atto a volte dei veri e propri abusi, che Papa Benedetto XVI definì in un suo celebre intervento ai limiti del sopportabile, purtroppo è consentito. Ma non, un conto che, come dire, ci siano le possibilità e gli escamotage per poterlo percorrere, un conto è assumere quelle posizioni estreme, a mio avviso incompatibili con la ortodossia cattolica, che affermano una radicale cattiveria o, come dire, inconsistenza oppure non bontà del novus ordo. Noi non possiamo assolutamente, ragazzi, vi dico questo perché lo sentite anche recentemente, ammettere una cosa di questo genere. Io ritengo che non si possa ammettere una cosa di questo genere, che è la posizione tradizionalista estrema assunta anche da alcuni gruppi, perché vorrebbe dire, cioè, ammettere che il Padre Eterno permetta che nella sua unica vera Chiesa, e questo sì che è vero, che è la Chiesa Cattolica, la stragrande maggioranza delle messe che vengono celebrate sono farlocche. Io questo non ritengo che non possa neanche, come dire, neanche concepirsi a livello mentale. Ecco. Ed in effetti non c'è nessuna motivazione teologica tale da poterla affermare. Ecco, vi parlo, insomma, come prete e come persona, insomma, che quando parla di teologia non vorrei fare peccato di superbia, mi sono confessato stamattina. Però sa di quello che parla. Detto questo, però, quindi fatte di nuovo queste premesse, che perdonatemi se insisto su alcuni punti, ma insisto a ragion di causa, torniamo un attimo, alla dottrina cattolica della Santa Messa. E anche oggi vorrei affrontare un tema particolare, anche questo grandemente richiesto, che è uno. Quello delle intenzioni della Santa Messa. Non so se voi vi è capitato, i fedeli vedono queste cose, si lamentano, magari non sapendo quello che dicono, però intuendolo in qualche modo. Io scherzando dico che a ogni messa che si sente dire in giro si sentono litanie dei santi, cioè 400 nomi, per cui la messa viene celebrata. Quindi va bene questa cosa oppure non va bene? Quindi vorrei rispondere oggi anche a questa domanda. E poi anche dire una piccola parolina importante sulla concelebrazione. Vediamo se riusciamo a fare tutto oggi, altrimenti ci aggiorniamo la prossima volta. Allora, io vorrei anzitutto spendere qualche parola sull'etimologia del termine messa, che non tutti lo sanno. Perché la messa si chiama messa? Va bene, allora anzitutto il primo significato etimologico, ce ne sono due, uno che risale al lemma latino e uno al lemma ebraico. Chiaramente facendolo risalire al latino, il termine missa deriverebbe da missio, sostantivo, e mittere, verbo. Intendendo con questo caso, in questo caso, missio come l'atto con cui si compariva davanti al superiore e con cui si era da lui congedati per compiere qualche ordine. Questo era la missio, diciamo così, latina, romana. Mentre la seconda etimologia fa derivare missa dall'ebraico missach, che significa offerta e sacrificio. Ecco, voi capite che nell'uno e nell'altro caso, a mio modestissimo parere, entrambe le etimologie sono da ritenere per farsi una prima idea, adesso prima ancora di andare a sviscerare il magistero della Chiesa, su ciò che la messa è. Un'offerta sacrificale, quindi etimologia ebraica, che però si attua comparendo davanti ad un superiore, superiore chiaramente con la S maiuscola, da cui si parte con una missione ben precisa. D'accordo? La Santa Messa, in questo senso, era ed è chiamata sacrificium, ovvero un'immolazione offerta a Dio, un tributo offerto a Lui da un suo servo a ciò esplicitamente designato per riconoscere la maestà infinita, primo, per riparare la giustizia offesa dai peccati degli uomini, secondo, per impetrare grazie sull'umanità e intercedere presso di Lui per i vivi e per i defunti, terzo. D'accordo? Quindi con questo abbiamo anche visto alcuni i fini della Santa Messa. La Messa è anzitutto un atto di gloria infinita rivolta alla maestà infinita di Dio. D'accordo? Perché è il sacrificio del suo stesso Figlio. Viene offerta a Dio per ripararne la giustizia offesa dai peccati degli uomini e riparata dal sacrificio cruento di Gesù, ed anche per impetrare ed ottenere qui ed ora grazie sull'umanità, intercedendo presso di Lui a favore dei vivi e dei defunti, che sono le due, diciamo, i due ambiti di persone per cui i frutti della Santa Messa, come vedremo, possono essere applicati. Ora, quale sacrificio si offre durante la Messa e chi lo offre? L'abbiamo già accennato. Ma noi sappiamo che il nostro Signore Gesù Cristo, agli stessi fini per cui la Messa è celebrata, cioè attestazione dell'assoluta maestà del Padre e assoluta obbedienza che gli è dovuta, riparazione della sua giustizia e acquisto della grazia per tutta l'umanità, gli offrì il sacrificio supremo, un sacrificio tremendo e cruento che si è consumato sul patibolo più infame che la storia abbia mai conosciuto, in una condizione tra l'altro estremamente umiliante ed infamante. Questo atto, a cui ha partecipato la Madonna, che era piede della croce come corredentrice, ha riacquistato all'umanità intera la grazia perduta da Adamo e da ogni uomo peccatore. Ecco, attenzione, questo l'abbiamo già visto nelle puntate precedenti. Tuttavia, compiuto il sacrificio e riacquistata la grazia, mancava, se così si può dire, uno strumento, un mezzo, perché questi infiniti meriti acquistati da Gesù potessero raggiungere tutti gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo, perché ne potessero beneficiare tutti dei frutti ed usufruirne degli effetti. E questo mezzo sublime, l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, è la Santa Messa. L'insegnamento autentico sulla Santa Messa si trova nel Sacrosanto Concilio Tridentino, il quale, contro le eresie luterane che negavano anzitutto il carattere sacrificale della Messa, riducendolo, riconducendolo a una commemorazione del banchetto dell'ultima cena. Basta. Quindi, contro questa dottrina eretica, il Concilio di Trento affermò chiaramente queste testuali parole, che cito, che la Santa Messa è un sacrificio vero e proprio, nel quale, sotto le apparenze sensibili del pane e del vivo, si offre dal sacerdote a Dio sull'altare il corpo e il sangue di Cristo istituito nell'ultima cena, quando Gesù costituì gli apostoli e con essi i loro successori e diede loro il potere di offrire questo sacrificio. Il Concilio prosegue qualificando questo sacrificio come la rinnovazione e la perpetuazione del sacrificio della croce e non una semplice commemorazione di esso, oppure un semplice sacrificio di lode o di ringraziamento. Lo definì vero e proprio sacrificio propiziatorio. Queste due espressioni significano, da un lato, che attraverso le parole della consacrazione viene realmente a riprodursi qui ed ora il sacrificio compiuto da Gesù sul Golgota, perché noi vediamo sull'altare il suo corpo separato dal suo sangue, ovvero nella condizione in cui si trovava, voi capite, quando stava padendo sulla croce per noi. Quindi avete visto che le specie vengono consacrate in maniera distinta. Si consacra prima il pane che diventa corpo di Cristo e poi il sangue, il calice, il vino, scusate, che diventa sangue di Cristo. Sull'altare questi due elementi si trovano separati, divisi l'uno dall'altro, perché sull'altare viene riprodotto ciò che è successo sulla croce. Cioè, voi che siete vivi, ragazzi, in questo momento il vostro sangue non è separato dal vostro corpo, sta dentro il vostro corpo. Se uno volesse rappresentarsi il vostro sangue separato dal vostro corpo, dovrebbe ferirvi, dovrebbe fare in modo di farvi uscire il sangue. Allora, il fatto che sull'altare siano consacrati in maniera distinta il corpo dal sangue di Cristo, vuol dire che sull'altare, per volontà di Gesù, viene a ripresentarsi la situazione che si è compiuta quando Gesù soffriva durante la passione e la morte in croce. Sangue separato dal corpo. Ed è un sacrificio propiziatorio, in quanto applica questa soddisfazione operata da Gesù in espiazione dei peccati e della pena ad essi dovuti. Quindi non è semplicemente un ringraziamento o una lode rivolta al Signore. Quindi c'è una piena identità, secondo la dottrina cattolica, tra il sacrificio della croce e il sacrificio della Santa Messa. Cambia solo, insegnava già Paolo VI nell'enciclica Mysterium Fidei, il modo con cui Gesù si offre. Perché sulla croce Gesù lo fece da se stesso e in maniera cruenta, quindi con spargimento reale di sangue. Nella Santa Messa lo fa attraverso il ministero del sacerdote e in maniera incruenta, senza spargere sangue, tuttavia sacrificandosi ed annientandosi realmente, ma in maniera mistica e sacramentale, attraverso la separazione del suo corpo dal suo sangue riprodotta nelle sacre specie. Questi sacerdoti, in quanto agiscono in persona Cristi, cosa hanno? Hanno il potere di applicare, attenzione a questo termine, secondo certe intenzioni, qui ed ora, i meriti infiniti del sacrificio della croce. Ecco perché si fanno dire le messe. Perché il sacerdote, dal momento che quando sta sull'altare agisce in persona Cristi, cioè è lui il sacrificatore, quindi colui che offre il sacrificio di Cristo al Padre, avendo, diciamo così, questo potere sulle sacre specie, ha un potere ad esso connesso, cioè può dire al Padre: guarda che i frutti di questa messa che sto celebrando, che è rappresentazione di un sacrificio di un Dio, quindi avente portata infinita, ma compiuto attraverso l'atto finito della messa, perché la messa è un atto enorme, ma è un atto, capite tutti quanti, no? Finito nel senso che c'ha una sua collocazione temporale e spaziale. Quindi il sacerdote può dire: io voglio che questa ripresentazione attuale del sacrificio di Gesù Cristo, che io sto offrendo, sia applicata per questa intenzione. Attenzione, questo potere del sacerdote non è un potere infinito. Come è limitato l'atto che compie durante la Santa Messa, così è limitato, come dire, il margine di applicazione. Cioè, non è possibile applicare la Santa Messa per un numero indefinito di intenzioni. Ma si può applicare la Santa Messa soltanto per una intenzione. Questo è ciò che sempre sta la dottrina comune della Santa Madre Chiesa, sempre. Quindi, conseguentemente, attenzione, e qui passiamo al secondo punto che vi stavo accennando, vediamo qualcosa sulle intenzioni della Santa Messa e l'offerta. Allora, è stato Papa Paolo VI, sempre nel documento che vi ho citato poc'anzi, molto bello, la Mysterium Fidei, a ricordare molto opportunamente che fin dai tempi degli Apostoli, quindi questa è tradizione antichissima, la Chiesa ha applicato i meriti di ogni sacrificio eucaristico per qualche particolare intenzione, ovvero per espiare i peccati o altre necessità, per esempio per chiedere la conversione dei fedeli viventi, quindi la messa si può applicare per i vivi. Sapete che si può chiedere a un sacerdote di celebrare la Santa Messa, si dice in termine tecnico ad mentem offerentis, cioè secondo le intenzioni dell'offerente. Io desidero che mio padre si converta, smetta di bestemmiare, posso far celebrare una messa con questa intenzione, ma magari, non solo che posso, non esiste al mondo preghiera più grande e più efficace della Santa Messa. Quindi oltre che a pregare per questa intenzione, se riesco a far dire una messa con questa intenzione posso stare tranquillo che questa intenzione avrà una potentissima, come dire, forza dinanzi a Dio, perché gli sarà presentata per i meriti infiniti del sacrificio del figlio che si attua e si compie e si realizza sull'altare di quel sacerdote a cui ho chiesto di applicare la messa secondo questa intenzione. E, oppure, secondo mediazione, a suffragio dei fedeli defunti in Cristo. D'accordo? A questa richiesta, continuiamo, che chiaramente fa appello a un potere che è esclusivo del sacerdote, perché è solo il sacerdote celebrante che ha questo potere, e ha questo potere soltanto sulle messe che celebra lui, non sulle messe che celebrano altri. Diciamo che questa richiesta, cioè fin dai primissimi tempi, invalse la consuetudine di unire un'offerta in denaro a titolo, state attenti, di elemosina, cioè non è il modo con cui io pago la messa. D'accordo? Ora voi dovete capire che questo ve lo apro una piccola parentesi, perché molti fedeli non capiscono queste cose e a volte, allora, la cosiddetta offerta per la messa è, diciamo così, originata da una duplice prassi. Innanzitutto l'elemosina, d'accordo? Perché i preti non lavorano, ragazzi e ragazze, ecco, voi non dovete pensare, cioè, il sacerdote, come dire, campa di ciò che gli viene dal ministero. Adesso qui sarebbe complicato, non è neanche il caso di fare una lezione in questa sede, però, allora, se un sacerdote diventa parroco, per farvi capire come sono io, che succede? La Chiesa, almeno in Italia, ha organizzato un istituto centrale dove convergono le offerte dei fedeli in modo tale che ciò che è necessario per vivere per i singoli parroci venga redistribuito in maniera equa, a prescindere dalla grandezza e dall'importanza delle parrocchie. È una cosa buona questa, perché vi faccio un esempio. Io sto in una parrocchietta piccoletta che, se dovessi campare con i parrocchiani, morirei di fame. E ci sono delle parrocchie, non lo so, grandi, pensate a una parrocchia tipo Sant'Eugenio a Roma, che si trova al quartiere Parioli e trova 50.000 persone, immaginate quanti soldi possono entrare dentro le casse di quella chiesa, no? Allora, che io sono disgraziato e il parroco di Sant'Eugenio diventa Rockefeller, non è possibile. Quindi la Chiesa provvede a riunire tutto in modo tale che i parroci abbiano tutti quanti una congrua, così si chiama, dignitosa, sufficiente per vivere decentemente. Però immaginate, se un prete non è parroco, pensate per esempio un prete che è studente universitario, che sta prendendo un dottorato a Roma, straniero, con che campa quello lì, ragazzi? Vi siete mai chiesto? Quello campa che se qualcuno gli chiede di celebrare con qualche mese, gli lascia un'offerta, campa. Se no, no. Se non c'ha fonti di reddito proprio, se non c'ha qualcuno che gli dà qualcosa, non campa. Capite? Questo è. Quindi l'elemosina, come dire, era giustificata, perché tenete presente che quello che prende da una santa messa, il sacerdote, se vuole, è l'unica cosa, può trattenerlo per le sue esigenze proprie e personali. Il resto, io parlo anche di parroci, di che viene dei sacramenti, benedizione delle case, offerte dei fedeli, eccetera, va tutto quanto nelle casse della parrocchia. L'unica eccezione è quello che gli viene dalla Santa Messa. Quindi non è una tassa, è un'elemosina, ecco, che è giustificata dal fatto, primo, che il sacerdote ci serve a campare, secondo, se il sacerdote accetta di celebrare la messa per una tua intenzione, lui non può, pur celebrando la Santa Messa, non lo so, se gli è morta la madre, applicare quella messa per la madre, perché non lo può fare. Perché dice il diritto canonico che una volta che il sacerdote riceve l'offerta per un'intenzione, per questo che bisogna lasciarla, perché dovete essere sicuri che il sacerdote ve la celebri, stare attenti, è obbligato sotto pena di peccato mortale ad applicare la Santa Messa per quell'intenzione. E se non può farlo lui, personalmente, deve prendere l'offerta di quella messa, darla a un suo confratello e chiedergli: confratello mio, celebra una messa per questa intenzione. Quindi questa è la disciplina. State attenti, oggi tutti quanti vogliono stare, vanno a messa e vogliono sentire il nome del defunto. Che il sacerdote dica il defunto ad alta, nome, non, ad alta voce non ha nessunissima importanza, nessuna. La messa in rito antico, durante il canone, non c'era la cosa detta alta voce. Cioè, il sacerdote guarda semplicemente, voglio dire, il Padre Eterno guarda semplicemente che l'intenzione del sacerdote sia applicare la messa secondo quell'intenzione. Vi faccio un esempio. Se io fossi un farabutto e stasera, non lo so, ricevo l'intenzione di messa per il defunto Nicola, d'accordo? Stasera celebro la messa in italiano col nuovo sordo, quindi durante la preghiera eucaristica io dirò: ricorda il Signore dei nostri fratelli defunti, in particolare di Nicola, eccetera, eccetera, no? Ora, se io a mente facessi questo discorso, allora ti dico: ricorda di Nicola, Signore mio, però siccome è morto mio padre, oggi voglio applicare la messa per mio padre. Quindi ho detto Nicola a alta voce, ma io dentro di me non l'ho applicata. Allora, tutte quante le persone che stanno a messa stanno tutte quante contenti che hanno sentito il nome. E io ho applicato la messa per mio padre. E per cui Nicola senza dubbio l'ho ricordato, ma ho fatto un semplice ricordo di un defunto, che è cosa molto diversa dall'applicare la messa per quell'intenzione. Non so se avete capito. Questo oggi vaglielo a fare capire a tanti fedeli, perché è vero che alcuni sacerdoti, adesso lo vedremo, compiendo un abuso, celebrano le messe secondo le litanie dei santi. Ma è anche vero che alcuni lo fanno per non star a sentire i fedeli, che pur di sentire il nome sono anche disposti a sentirne altri 40 vicino. Cosa che, come vedremo tra poco, non serve assolutamente a nulla. Vi invito adesso a unirvi a me, facciamo insieme un'Ave Maria, sono le ore 17. Come sempre, una piccola pausa durante la catechesi, il ricordo dell'apparizione che Maria Santissima fece a Santa Caterina Labourè nel lontano 1830, alle 17 del pomeriggio. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, riprendiamo, ragazzi. Allora, riprendiamo da dove ci siamo fermati. Oggi purtroppo è invalsa una prassi che è un abuso severamente riprovato dalla Chiesa. Io adesso vi farò il nome dei documenti e vi leggerò anche quello che c'è scritto, di celebrare messe con molte intenzioni, 3, 4, 10, 20 nomi pronunciati a alta voce, e i fedeli che stanno a queste messe tutti quanti contenti di sentire il nome del proprio caro, convinti, che non ci sia alcuna differenza tra dirne uno o dirne tanti. Questo pensano i fedeli. E a volte questo pensa anche qualche prete, facendo questo discorso. Ma figurati se il Padre Eterno sta lì col block notes. Figurati poi, la messa è la celebrazione del sacrificio di Cristo. Il sacrificio di Cristo ha valore infinito. Quindi che differenza c'è che dice un nome o due? Che forse il sacrificio infinito di Cristo non ce n'è abbastanza per coprirne due? Ecco. I soliti discorsi sciocchi purtroppo vengono sempre formulati attraverso pretesti speciosi che li rendono in qualche modo verosimili. Ecco. Solo, ragazzi, state sempre attenti. Quando sentite dire delle cose strane, vi deve anzitutto venire vi deve essere messa la pulce nell'orecchio, anzitutto da una considerazione, che è quella della tradizione della Chiesa. Allora, se voi andavate dai preti di qualche tempo fa, i preti di qualche tempo fa avevano dentro il taschino un'agendina personale dove si segnavano le intenzioni di messa. Se tu gli andavi a chiedere, dice: Don Francesco, mi dici la messa per favore domani per mio padre? Quello apriva l'agendina portatile, vedeva che per domani c'era già un'intenzione per Daniele, diceva: guarda figlio mio, domani te la posso dire. Se vuoi te la dico dopo domani. Domanda: come mai facevano questo? Tra l'altro, no? Scusate, no? Non gli converrebbe a quel prete dire un'altra messa, dato che se la può mettere in tasca l'offerta, se all'offerta di, non lo so, Daniele, ci aggiungiamo anche l'offerta di Filiberto? Quindi, perché gli dice di no? È matto? Forse a quei tempi non sapevano bene la teologia? Non sapevano che la messa aveva un valore infinito? E come mai non prendevano due intenzioni? Forse erano così santi da non essere attaccati al denaro, quindi che non gli importa niente di prendere la seconda intenzione perché erano così poveri? Ecco, io sto facendo un po' di ironia, no? Però per farvi capire. Come mai però questo non lo facevano? Provate a informarvi. Io ho dei parenti molto stretti che c'avevano i familiari che erano preti e raccontano sempre questa cosa, scandalizzati di quello che si sente oggi in giro. Ora, prima pulce nell'orecchio deve venire dalla prassi contraria che si è avuta per millenni, no? Qui stiamo nelle follie del XX secolo. Cioè, c'è una frase che a me mi dà un fastidio quando la sento, ragazzi. Una volta si faceva. Una volta si faceva, una volta si faceva. Questa frase qua, una volta si faceva, una volta si diceva, come si diceva una volta, come si faceva una volta. Sembra che una volta era e non si può fare più niente di tutto quello che si può fare. Dico, ma è possibile una cosa di questo genere qui? È mai possibile? Che mo sono sempre cambiate tutte quante le cose, che è sempre tutto, è tutto nuovo, è tutto strano, è tutto diverso. È possibile? Allora, il problema è che c'è un documento ufficiale della Congregazione per il Clero, datato 22 febbraio 1991, quindi ben 20 anni dopo la cosiddetta riforma liturgica, il nuovo Missale di Paolo VI, sapete che è stato ufficialmente pubblicato ed edito nel 1970. Si chiama, significativamente, le messe collettive, in cui questo documento ammoniva circa l'arbitrarietà di cumulare più intenzioni nella stessa messa, ingiungendo ai vescovi di far conoscere le disposizioni ivi contenute e di farle osservare. Allora, nel documento si leggono, apro virgolette, queste testuali parole: a norma del canone 948 del codice di diritto canonico devono essere applicate messe distinte, attenzione, secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta data, anche se esigua, è stata accettata. E il sacerdote che accetta l'offerta per la celebrazione di una santa messa per un'intenzione particolare è tenuto per giustizia a soddisfare personalmente l'obbligo assunto. Si badi che si parla di un'intenzione, per cui il documento riconosce come erronea anche la prassi di quei fedeli che chiedono di celebrare una messa per molti defunti. In teoria questo si può fare, d'accordo? Una sola intenzione, io però chiedo, non lo so, di celebrare tutti i miei defunti, ma non è l'ideale. Sempre con i sacerdoti di un tempo, come si faceva una volta, non accettavano di chiedere di prendere messe se non per un defunto, un nome, uno, e basta. Il documento prosegue, sempre virgolette, contravvengono a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale i sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di messe secondo particolari intenzioni e cumulandone, attenzione, in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un'unica messa celebrata secondo un'intenzione detta collettiva. Capito? Contravvengono a questa norma e si assumono la relativa responsabilità morale. Prendete questo documento, lo trovate in Acta Apostolice Sedis, 22 febbraio 1991, Congregazione per il Clero, messe collettive, e fatela leggere ai vostri parroci, se non vi obbediscono. Oppure portatelo in curia, fatelo rileggere ai vescovi e ditegli che intervenissero con i parroci che contravvengono a queste norme. Allora, capite? È chiaro dunque che tale prassi costituisce un abuso da parte dei sacerdoti e una violazione del diritto dei fedeli di vedere effettivamente applicato il santo sacrificio della messa per cui hanno lasciato un'offerta secondo la propria particolare intenzione. Oggi, tuttavia, però, è per questo che è stato uscito questo documento, c'è un problema grosso, cioè carenza di clero, per cui in alcune parrocchie sarebbe impossibile soddisfare tutte le richieste. Questo è un esempio mio personale, cioè io personalmente non ho assolutamente la possibilità di soddisfare tutte le richieste di messe che mi pervengono, perché io qui sto da solo, non ci sono 4-5 preti, quindi non abbiamo la possibilità di celebrare 4-5 messe al giorno. Per cui trovare un momento in cui io riesco a imbucare un'intenzione di messa diventa molto molto difficile. Ecco, allora, il documento ha previsto anche questa ipotesi e prescrive: nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le offerte siano cumulate, scusate, con altre in un'unica offerta, cioè di fatto che si celebri una messa con più intenzioni. Quindi bisogna avvertirli, si può soddisfare con una sola santa messa celebrata secondo un'unica intenzione. In questo caso però è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l'orario in cui questa santa messa sarà celebrata e non più di 2 volte a settimana. Ecco, io attenendomi a questa norma, nella mia parrocchia i miei fedeli sanno che il mercoledì e il venerdì, qualora non ci sia la possibilità di fare diversamente, si cumulano le intenzioni. Ecco. Sanno anche però che se io il mercoledì ho 4 intenzioni, e chiaramente devo celebrare la messa per queste intenzioni, io faccio così: una la applico e le altre 3, attraverso sacerdoti miei amici che non hanno intenzione di messa, le faccio ricelebrare, dando chiaramente al sacerdote che le ricelebra l'offerta che ho percepito, in modo tale che si fanno contenti i fedeli, in modo tale che possono partecipare in diretta alla messa secondo l'intenzione che hanno chiesto. Però si fa anche un bel regalo all'anima per cui quella messa è celebrata, perché il valore di una messa plurintenzionata è enormemente diversa da quella celebrata applicandola per quella sola intenzione. E io personalmente così ritengo di fare. Quindi, osservando questa disposizione, al tempo stesso cerco di recuperare a questa necessità grave, dipendente semplicemente dal fatto che non ho proprio la possibilità di evadere tutte le richieste, con questo gesto, che è anche una piccola carità per qualche sacerdote che poverino sta privo di intenzioni, e al tempo stesso fa una grande carità per l'anima per cui quella messa viene nuovamente celebrata, per cui se ne ritrova anziché una, se ne trova due, di cui una con un valore, come dire, limitato e un'altra con un valore pieno. Quindi questo semplicemente per farvi rendere conto, e non vi deve stupire questo, perché vi ripeto, e adesso volevo dire una parola sulla concelebrazione. La Santa Messa, come vi ho accennato, è la ripresentazione sacramentale del sacrificio della croce. Però il sacrificio della croce, voi capite che ha acquistato la grazia e ha pagato i debiti dell'umanità, soddisfando quello cruento alla giustizia di Dio in maniera assoluta e infinita. La Santa Messa, che certamente ripresenta, ripropone e attualizza quell'unico sacrificio, vi ripeto, è un atto limitato e determinato, compiuto qui ed ora da un sacerdote. Quindi, pur facendo riferimento a un sacrificio infinito, che è quello del Figlio di Dio sofferente e morente sulla croce, è però celebrato qui ed ora e quindi, come dire, attinge da questa fonte in maniera limitata. D'accordo? E quindi il valore applicativo e l'efficacia applicativa di una singola santa messa è particolare. Per cui certamente che nella messa si prega per tutti, ma ogni preghiera eucaristica, se voi fate attenzione, c'è l'intercessione per i vivi, l'intercessione per i defunti, il sacerdote si può fermare, ricordare i defunti che vuole ricordare, ricordare per i vivi, ma un conto è il ricordo dei vivi e dei defunti e l'intercessione per loro che viene fatta nella grande supplica della preghiera eucaristica, a cui anche i singoli fedeli possono, anzi devono, durante la Santa Messa pregare secondo le loro intenzioni. Un conto è questa cosa particolare, cioè il frutto di quella santa messa da applicare per una certa intenzione. Ecco, che deve essere limitato e delimitato, secondo l'antichissima prassi e tradizione della Chiesa, che ha, come diceva già Paolo VI, origini apostoliche. E adesso qui c'è un grande problema. che con la messa nuova è stata consentita la concelebrazione. Non soltanto è stata consentita la concelebrazione, ma oggi si assiste, per esempio, nelle parrocchie dove, a differenza della mia, ci sono anche 4-5 sacerdoti, sono sempre più rare, però, specialmente nelle comunità religiose, questo fenomeno a volte può avvenire. Allora, domanda: che cosa facciamo? Concelebriamo la messa serale tutti insieme? Oppure facciamo 5 messe? Allora, da un punto di vista di valore, è uguale che 5 sacerdoti concelebrino nella stessa messa o celebrino 5 messe separate? Ora, bisogna fare estrema attenzione, perché seguendo la dottrina di San Tommaso d'Aquino, e io ritengo che su questo sia da seguire, che è la dottrina che fa riferimento al realismo sacramentale, cioè a quello che vi ho appena accennato, 5 sacerdoti che celebrano una santa messa non celebrano 5 messe, ma concelebrano una messa sola. Per cui, torniamo indietro, stante il discorso che quella santa messa ha, fa riferimento a un sacrificio di valore infinito, ma ha dei frutti applicabili limitati, se tu ne celebri una, è molto diverso da celebrarne 5. Cioè, diffondere in maniera eccessiva la pratica della concelebrazione, che in alcuni casi non soltanto è lecita, ma anche particolarmente significativa, si pensi per esempio alla grande concelebrazione che fanno tutti i sacerdoti unitamente al vescovo il giorno del Giovedì Santo, quando vengono benedetti gli oli. Pensate che questa era l'unica volta in cui c'era una sorta di concelebrazione, anche quando si celebrava secondo il rito romano antico, in cui la concelebrazione non è ammessa. Pensate. Però un conto è diffondere questa cosa. Per cosa vuol dire questo qui? Se la messa è una attualizzazione del sacrificio del Golgota, che produce delle vere grazie che si impetrano da Dio, in quanto questo è un vero sacrificio propiziatorio, allora, se in una giornata vengono celebrate, non lo so, 1 milione di messe, non è la stessa cosa che se in quella stessa giornata ne vengono celebrate 400.000. Non è la stessa cosa. E non bisogna fare il discorso sciocco e stupido di Dio che sta lì col contagocce o che sta lì a fare il notaio, perché questo è un altro discorso assurdo. Cioè, vi faccio un esempio per non dilungarmi, no? Allora, quando la Madonna apparve a Fatima, sapete che nella prima apparizione Suor Lucia si mise a fare un pochino di domande inerenti a chi si andava, a chi andava in paradiso e chi andò e chi si salvava. Ha cominciato a chiedere: ma io quando muoio ci vado in paradiso? Ma Giacinta e Francesco? Di Francesco, un bambino piccolino, fu detto dalla Madonna: andrà in paradiso, ma deve recitare molti rosari. Cosa significa molti rosari? Molti rosari significa che, pur essendo un bambino, aveva già fatto alcuni peccati veniali. I peccati veniali ci fanno fare il purgatorio. Allora, nel purgatorio si spiano le colpe. Se tu vuoi spiare le colpe sulla terra, devi fare delle opere penitenziali, tra cui le preghiere. Allora, se tu hai fatto un peccatuccio, del rosario ne basta uno. Se quella gli ha detto devi recitare molti rosari, vuol dire che i peccati che aveva fatto questo bambino, per essere spiati, necessitavano di tanti rosari, non di uno. Ha voglia che si sentano alcuni preti che vanno ad in giro, dice che serve di tante preghiere, basta che uno dice bene un'Ave Maria. Ma non è vero questo qui, ragazzi, non è vero, perché non è la stessa cosa pregare tanto o pregare per niente o pregare poco. Ma dove sta scritto questo qui? E Padre Pio che si diceva 100 rosari al giorno? Scusa, non poteva fare meglio a dirne uno solo e poi il resto del tempo pensare ad altro? Come mai? Qui oggi sono diventati tutti quanti scienziati, tutti quanti teologi, tutti quanti, ma andando a dire delle cose che sono contrarissime a ciò che è stato sempre insegnato nella Santa Chiesa. Quindi non è affatto la stessa cosa. Quindi certamente in caso di necessità o in caso, però l'importanza del fatto che la messa sia celebrata personalmente dal sacerdote la si evince dal fatto che nel diritto canonico c'è scritto che la concelebrazione non può essere imposta a nessuno. Io ho dovuto litigare più di qualche volta, trovandomi in qualche santuario, perché sono andato in visita a qualche santuario e dico: sentite, io oggi devo celebrare la messa. Va bene padre, può concelebrare la messa d'orario alle 18? Dico: no, io non concelebro niente. Dico: io voglio celebrare la messa. Ecco. No, qui la regola è così, il rettore ha detto così, dico, il rettore non può dire assolutamente nulla perché il diritto canonico dice che la concelebrazione non può essere imposta. Per cui se a me mi va, accetto di concelebrare con altri. Se io voglio celebrare la messa e sono un prete con tutti quanti i crismi e c'ho il celebret e c'ho le lettere commendatizie del vescovo, tu mi fai celebrare. Perché sono un prete cattolico, ho il diritto di celebrare la messa su un altare messo a mia disposizione senza ospiti a fianco. Sta nel diritto canonico, ragazzi, non me lo sto inventando io. Ecco, quindi questo tanto per mettere un puntino sugli i, su un aspetto a mio avviso essenziale. Ecco, io so benissimo che ci sono anche altre teorie e altri modi di intendere la messa concelebrata, lo so, ma a mio avviso non c'è la possibilità di scampo. Se la messa è un atto finito e limitato, non è assolutamente concepibile il fatto che più sacerdoti che celebrano la stessa messa moltiplichino le messe. Quindi, se si trovano 5 sacerdoti che concelebrano la stessa messa, in realtà stanno facendo 5 messe. Questo non è assolutamente possibile. Avere una visione di questo genere non è assolutamente possibile, a mio modestissimo avviso. Concludendo, diciamo la conversazione di oggi, vorrei un attimo con voi riprendere alcune splendide espressioni del grande San Pio di Pietrelcina a proposito della grandezza della Santa Messa. Allora, quindi, a mo' di conclusione, vi citerò adesso alcune espressioni tipiche di San Pio, contenute nei suoi scritti in modo particolare in un libro che è quasi introvabile, che è La testimonianza raccolta dalla sua figlia spirituale prediletta, Cleonice Morcaldi, e pubblicata nel libro, adesso non lo trovate più da nessuna parte, perché è completamente esaurito, non lo hanno ristampato, La mia vita vicino a Padre Pio, diario intimo e spirituale. Io mi sono preso la briga di fare un sacco di fotocopie, proprio perché purtroppo oggi è reperibile questo testo, e di metterlo a disposizione di chi lo desidera in formato PDF sul sito della mia parrocchia. Ecco, tenete presente che a volte mi arrivano segnalazioni, perché il sito della parrocchia www.parrocchiasanmichele.eu è diventato abbastanza grosso, quindi c'è tanto materiale, non sempre, però è facile reperirlo. Però, se ci fate attenzione, nella home page in alto a sinistra c'è uno spazietto dove c'è scritto search, non mi ricordo, oppure cerca, non mi ricordo se a sinistra o se a destra. Se uno lì mette una parola chiave, per esempio Morcaldi, Cleonice Morcaldi, oppure mette il titolo La mia vita vicino a Padre Pio, e clicca questo lemma su quello spazietto e spinge invio, e sotto gli viene subito la pagina dove quel documento si trova e lo può consultare o scaricare. Quindi ecco, io ho cercato di fare il più ordine possibile, però essendoci davvero tante cose, navigare dentro il sito diventa un pochettino complicato. Però c'è questo strumento, mi sembra opportuno dirlo per radio perché spesso mi arrivano le segnalazioni. Il grande stigmatizzato del Gargano, parlando della Santa Messa, scrive queste testuali parole. Le leggo in forma di dialogo tra Cleonice Morcaldi e lui, perché così si esprimevano questi due personaggi santi, uno sicuramente sì, l'altra speriamo presto canonizzata, nei loro colloqui spirituali. Cleonice chiede: Padre, ditemi per amore di Dio se la corona di spina l'avete per tutto il tempo della Messa. Risponde: sì. E anche prima e dopo. Quanti peccati espiò Gesù con la corona di spine? Tutti, risponde lui, in particolare i peccati di pensiero. A Gesù durante la passione strapparono i capelli. Soffrite pure questo, voi? Risponde: mi scerpano pure le ossa. Anche la flagellazione soffrite durante la Santa Messa? Sì, in modo crescente, dalla consacrazione alla comunione. Quando subite la morte? Risponde: nella Santa Comunione. L'addolorata vi assiste? È sempre presente durante il divino sacrificio? Risponde: E può una madre disinteressarsi del figlio? C'è lei e c'è tutto il paradiso. Perché avete pianto durante le tre messe di Natale? E me lo domandi pure. Non pensi al tremendo mistero della messa? Un Dio vittima per la salvezza degli uomini che lo offendono. Non pensi che tutto il paradiso si riversa sull'altare? E noi, sacerdoti, siamo i macellai dell'agnello di Dio. Ditemi come devo assistere alla vostra messa. Compatendo e amando, assisti come assistettero la Vergine e le pie donne. Ecco, infine la chicca delle chicche. Quanta gloria dà a Dio la Santa Messa? Punto interrogativo. Infinita gloria. Infinita gloria, ragazzi. La messa è la cosa in assoluto più grande e più eccelsa che noi possiamo vivere e compiere. Io vi dico, ragazzi, non esiste nulla di più grande in tutto l'universo che la Santa Messa. Anche il Santo Curato d'Ars amava parlare della Santa Messa e diceva espressioni di questo genere. Cioè, non c'è niente di più grande della Santa Messa, perché ogni azione e ogni preghiera che noi possiamo fare è sempre opera nostra, opera dell'uomo. Ma la messa è opera di Dio, perché è un Dio che si sacrifica, certamente attraverso il ministero del sacerdote, ma è Lui che si sacrifica durante la Santa Messa. Quindi non c'è assolutamente nulla di più grande. Cioè, dobbiamo tanto pregare il Signore che ci faccia comprendere l'importanza della Santa Messa. Ecco, non dovrebbe neanche esistere, almeno in questo senso, il terzo comandamento. Cioè, il terzo comandamento dovrebbe limitarsi a ciò che vedremo la prossima volta, quando speriamo di concluderlo, che attiene, diciamo, un po' agli accessori, ecco, in ordine all'osservanza di questo comandamento, che il fulcro fondamentale oggi nella disciplina della Chiesa sta proprio nell'osservanza del precetto domenicale. Noi dovremmo auspicare, siamo nell'anno della fede, di tornare ad avere una fede grande, come i nostri fratelli nella fede, dei primi secoli del cristianesimo, che dicevano: noi potremmo vivere anche senza mangiare, o potrebbe anche vivere il mondo senza il sole, piuttosto che noi senza la Santa Messa, perché senza questa non possiamo assolutamente vivere. Se uno avesse concepito e compreso, per quanto possibile a mente umana, e interiorizzato il valore, questo valore, che è il valore reale della Santa Messa, il terzo comandamento diverrebbe fondamentalmente inutile, nel senso che non ci sarebbe bisogno di comandare, di compiere una cosa tanto grande e tanto importante, e tanto meno limitata a un giorno, alla settimana, ma tutti, come, ripeto, è la prassi diffusissima nei primi secoli del cristianesimo, andrebbero a messa tutti i giorni. Ecco, non è un caso che la Madonna, dovunque appaia, e facciamo riferimento in queste sedi soltanto alle apparizioni riconosciute, se ci fate caso, la prima cosa che comanda, guardate Lourdes, guardate Fatima, ma guardate anche le più antiche, Guadalupe, eccetera, dice: voglio che in questo luogo sia costruita una cappella, voglio che in questo luogo sia costruita una cappella, voglio che in questo luogo sia costruita una cappella. Cosa viene costruita a fare la cappella in qualche luogo, ragazzi e ragazze carissime? Facilissimo. La cappella è un luogo di culto, nella cappella si celebra la Santa Messa. Se la Madonna fa costruire come prima cosa la cappella, è segno che la prima cosa che vuole dai suoi figli è che imparino a comprendere l'altezza e il valore della Santa Messa e siano esemplari, e con parteciparvi il più spesso possibile, non soltanto quindi parteciparvi in maniera passiva, ma traendo da questo tesoro sgorgato dal cuore di Dio tutti i frutti possibili che da esso si possono raccogliere. Vedo che il tempo a nostra disposizione è scaduto, mi scuso per l'interruzione, le prossime volte pregheremo un pochino di più perché il Signore ci conceda la grazia di poter essere difesi durante queste nostre conversazioni e posti al riparo da disturbatori e perturbatori esterni, insomma, di vario genere. Io vi saluto tutti, vi do la mia benedizione, vi invito a pregare molto, sapete tutti quanti che Benedetto XVI dopodomani compirà l'annunciato gesto e si apriranno quindi le preghiere e le suppliche da levare a Dio per il successore di Benedetto XVI. Preghiamo tutti, specialmente con il Santo Rosario, perché la Madonna ottenga alla Chiesa un degno successore di Pietro, un Papa Santo, che che possa prendersi il carico della Santa Chiesa e portarne avanti la conduzione in questi tempi così difficili. Vi do la mia benedizione a tutti. Ave Maria.